Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Capitolo 2. Il meticoloso. Drago era a casa. Seduto alla scrivania, contemplava il Devil, il frutto della sua ricerca furiosa. L'osservò trasognato per alcuni istanti, prima di prenderlo in mano. La scatoletta nera, satinata come seta, non era più grande di un pacchetto di sigarette. Un involucro anonimo con una manopola graduata, un pulsante on-off e due LED, uno rosso e uno verde. Lo aveva costruito con cura, semplice e raffinato, senza niente che mancasse o che fosse superfluo. Svitò le viti alla base del congegno e lo aprì. All'interno due chip e pochi altri elementi elettronici. Un paio di condensatori, un trimmer, una manciata di resistenze diodi, una porta di input e output per collegamenti digitali. Durante i mesi passati a sperimentare, aveva individuato con precisione quali fossero le frequenze esatte da stimolare per ottenere l'effetto voluto e tarare lo strumento di conseguenza. A ogni valore di cicli per secondo corrispondeva all'eccitazione di una particolare area della coscienza. Aveva così creato una mappa degli effetti e delle relative frequenze. Ci aveva messo del tempo, amava essere meticoloso. Aveva iniziato gli esperimenti con il primo prototipo del Devil, scegliendo, dopo lunghe meditazioni, di riprodurre la funzione d'onda dell'euforia. L'aveva sperimentata su se stesso alla presenza di Mirko. Era stato istruttivo, aveva iniziato a ridere di cuore come non faceva più da quando era bambino. Il suo respiro era diventato tutt'uno con la risata, il suo corpo leggero come un palloncino. Sentiva tutto il suo essere sfrigolare di euforia. Scorgeva Mirko che lo osservava preoccupato dall'altra parte del vetro e la cosa gli faceva torcere ancora di più le budella per la sua comicità. Non aveva mai provato alcun tipo di droga poiché non amava perdere il controllo, ma gli passò per la mente che forse era questo che provavano quelli della Resi quando si stravaccavano sui prati e diventavano dei felici idioti. Quando Riviera spense il Devil, Ocelot stava ancora singhiozzando dalle risate. Quella sera fu la più bella della sua vita. Finalmente il suo sogno aveva trovato la sua realtà. Nei mesi successivi proseguì poi meticolosamente a esplorare la gamma delle emozioni umane. La Resi era il laboratorio perfetto, un ambiente ideale di inconsapevoli cavie, soggetti perfetti per testare il frutto delle sue ricerche. Un giardino fiorito di teste pensanti, abbastanza fuori dal comune per poter mai destare sospetti a causa di un comportamento anomalo. La prima volta che regolò il Devil per causare odio rimase stupito. Aveva sempre avuto un interesse particolare per l'odio. Gli sembrava la più potente tra le emozioni, una ruggine corrosiva dell'anima, un catalizzatore ancora più forte dell'amore. In effetti erano bastati pochi istanti di esposizione al Devil affinché gli ascoltatori di quella sera iniziassero a diventare feroci. Aveva scelto nel vivaio della Resi i soggetti più innocui e deboli. Il pescatore e il nero erano quanto di più bradiposo si potesse trovare. Quando arrivarono alla sala prove erano già storditi. Il sorriso idiota stampato sulle labbra era la prova che quella sera avevano trovato qualcosa di veramente buono da fumare. In quelle condizioni il massimo che ci si potesse aspettare da loro era un movimento delle mani per accendersi un'altra canna. A malapena si reggevano in piedi. Quando il gruppo iniziò a suonare, il nero aveva già tirato fuori il fatto apposta per preparare con calma l'inevitabile canna. Il pescatore lo guardava con evidente interesse e impazienza. Drago li teneva d'occhio al di là del vetro della sala prove. Erano sdraiati sui cuscini per terra, tranquilli e beati, persi nel loro universo nebbioso. Una frazione di secondo dopo che ebbe acceso il Devil, vide il nero sferrare all'improvviso un potente pugno dritto sulla bocca del pescatore che, sputando un paio di denti, senza un attimo di esitazione, si alzò in piedi e assestò con gli inseparabili anfibi rinforzati un vigoroso calcio nello stomaco del nero. Billy fu il primo del gruppo a notare qualcosa di strano. Era come guardare un film muto di Kung Fu. «Ma che cazzo fanno?» esclamò. Smise immediatamente di suonare, restando con le braccia alzate, congelate, a metà della rullata interrotta. Il nero giaceva a terra. Ringhiava, cingendosi con le mani il ventre nel punto dove era stato colpito. Scalciò in aria e colpì la schiena del pescatore che, nel frattempo, aveva afferrato una massiccia chitarra elettrica Gibson appoggiata lì vicino. Fu Mirko il primo a precipitarsi fuori dalla sala prove, si lanciò sul pescatore che brandiva la chitarra già alzata per colpire e lo gettò a terra. Drago fu lesto a spegnere il Devil prima che anche Mirko entrasse nel suo campo d'azione. Appena il segnale del Devil cessò e l'antico potere tornò nel suo limbo, il nero e il pescatore si guardarono increduli. Stettero a fissarsi per una decina di secondi, poi iniziarono a ridere, dapprima esitanti, poi fragorosamente. Gli altri del gruppo li guardavano increduli. Billy era allibito. «Che cazzo vi prende voi due? Siete proprio delle merde! Ma di cosa vi fate?» Per tutta risposta le risate divennero ancora più convulse. I due combattenti mischiavano lacrime di dolore e di divertimento. «Ragazzi, dobbiamo assolutamente farcene un'altra», singhiozzava ridendo il pescatore. «Che storia, che storia!» Bollicine di sangue si gonfiavano e scoppiavano sulle labbra del nero mentre parlava e rideva. «Benvenuti in Follinesia», commentò Mirko con aria sconsolata. Quella fu la sera in cui ebbe l'idea di sovrapporre più frequenze per ottenere l'effetto che cercava. L'intensità e la subitaneità dell'odio scatenato lo avevano convinto che questi potesse funzionare da carburante, potenziando la reazione emotiva al Devil. L'alba arrivò trovando l'occhino sui circuiti. Aveva moltiplicato la routine di interferenza di modo che potesse operare contemporaneamente su più livelli. L'odio serviva da frequenza base. Annientava le difese della mente razionale, portando allo scoperto le reazioni istintive della mente rettile. Era un lubrificante, uno scivolo su cui far scorrere indisturbate altre suggestioni. Quella sera aveva anche capito che qualche precauzione sarebbe stata necessaria. Aveva perciò studiato un antidoto, un circuito che invertiva la funzione d'onda e la inviava a due auricolari, permettendo così a chi li indossava di non essere colpiti dalle frequenze mutate. «Ecce anti-Devil», disse con un ghigno rivolto alla stanza deserta. Ora, dopo l'esperimento con le anne che gli aveva fornito l'ultima tessera del puzzle, non vedeva l'ora di iniziare a fare le cose in grande. Collegò il Devil a un analizzatore di spettro e, aspettando che caricasse i dati, allungò le gambe e le braccia, stiracchiandosi. Diede un'occhiata in giro, era in camera sua, circondato dalla sua vita che lo guardava. Un filo di memorie collegava ogni angolo della stanza. Poteva rivedersi, era lì, tanto tempo prima. La danza del pulviscolo tra i raggi di luce della mattina che filtravano tra le tapparelle, il suo vecchio giradischi di plastica e metallo decorato con illustrazioni infantili. Un bambino solo, seduto per terra, che guardava i neri lucidi dischi di vinile girare nel bagliore dei riflessi del sole fino a che il sole non calava. La musica gli parlava, gli sembrava che lo capisse, lo precipitava in un gorgo indeterminato di suoni e visioni. Non conosceva le parole esatte per esprimere le sue emozioni, ma aveva compreso che i vocaboli non erano le uniche cose necessarie per comunicare. Era rimasto orfano pochi mesi dopo la sua nascita. Un incidente e una malattia lo privarono dell'affetto di una famiglia completa. Era cresciuto con la nonna in una villa, troppo grande per loro due. A scuola era stato uno studente distratto, interessato, almeno finché non scoprì il sesso, soltanto a qualsiasi cosa avesse a che fare con la musica o con le onde sonore. Lo aveva affascinato la storia di Pitagora, che passando vicino alla bottega di un fabbro fu colpito dai suoni che diversi martelli di metallo producevano quando venivano battuti sull'incudine. I suoni erano armonici e consonanti tra loro solo se i rapporti fra le masse dei martelli erano rappresentati da frazioni di numeri interi. Drago iniziò a pensare che la musica fosse davvero la chiave per decifrare l'ordine matematico dell'universo. Era un fenomeno così incorporeo, eppure così fisico, una porta che univa il mondo fisico a quello mentale. Nel corso della sua giovinezza continuò a essere affascinato da ogni cosa che, pur permeando il nostro universo, rimane oscura agli occhi. Onde sonore, campi elettromagnetici, gli elettroni che danzano intorno agli atomi, il vuoto di cui è costituita in massima parte la materia, la scienza del rendere visibile l'invisibile. Da adolescente amava trascorrere ore e ore sognando a occhi aperti, proiettando i suoi film mentali sullo schermo della propria appuntita immaginazione. Sdraiato sul divano in sala, ascoltando in cuffia a tutto volume le canzoni che più amava, viveva dentro di sé le emozioni suscitate dalle melodie, immaginando di replicarle. Desiderava trovare un modo di trasmetterle agli altri. Gli tornava in mente Pitagora. Gli serviva l'equivalente del rapporto fisico-musicale applicato alla psiche umana. Iniziò a studiare le onde elettriche prodotte dal suo cervello, catalogandole meticolosamente su fogli che poi appendeva alle pareti della sua camera. Fu un suo amico, il Secchione, che lo aiutò nei primi passi con l'elettronica, replicando gli schemi delle macchine usate in medicina per rilevare le onde cerebrali, piuttosto semplici da costruire, almeno per un Secchione come lui. Drago assorbiva e imparava. Era ormai un esperto quando infine giunse la stagione in cui gli incastri andarono al loro posto e incontrò il compagno del suo destino. Era pronto per ricevere il libro e il libro era pronto per lui. Inserì un paio di comandi da tastiera, fece partire la sequenza per programmare la EEPROM del circuito, inserendo gli algoritmi modificati che avrebbero cambiato il mondo. Lo aveva chiamato effetto God. Guardando i grafici dell'oscilloscopio che tracciavano in una danza colorata la curva della funzione d'onda prodotta dal Devil, gli venne in mente un film jugoslavo sulla vita di Nikola Tesla che anni prima lui e Mirko videro in TV. Erano rimasti entrambi colpiti dalle similitudini, persino fisiche, tra Tesla e Drago. Il cantante sembrava davvero la reincarnazione dello sfortunato scienziato. E ora, così come Tesla aveva scoperto la corrente alternata, così Drago aveva scoperto la frequenza multipla, la vibrazione della funzione d'onda. Ne era sempre stato maledettamente sicuro. Tesla era morto pazzo e povero. Lui, il meticoloso, aveva ben altri piani. Niente e nessuno lo avrebbero fermato. L'incidente di quel giorno n'era stata la prova. Le cose non avrebbero dovuto prendere quella piega. Ma era stato attento a cancellare ogni traccia. Il Secchione se l'era cercato. Si fottesse. Drago si passò una mano fra i capelli color della notte per riordinarli. Guardò verso lo specchio e sorrise il suo miglior sorriso da squalo. L'ignoranza del nemico era la sua forza.